domando, è che ti domando, che ti domando, dimmi tu, un po' confuso. Lo pensiero mi scappò in la testa, si imbroglia un po' confuso. Si ridi mi confondi, si parri mi scombini, mi fai girare a testa. Fai sentire un po' confuso. Minchia, ma quando sei bravo, minchia, sogno bravo a parare a cantare in siciliano. Tu capisti? Se l'avevo caputo bene.